incredibile cosa costa questo traffico, tutto vuoto, guarda. E oggi c'è qualche vagone in più, metti una locomotiva un po' più forte, carichi quello che devi caricare e visto che gira al 30%, facciamolo girare all'80, al 90, a quel punto lì possiamo dire ecco, facciamo un'altra ferrovia perché quelle che abbiamo sono sature. Ma visto che in questi 20 anni qui sono spariti 30.000 posti di lavoro, 10 cotonifici, 5.000 alle ferriere, Moncenisio, Magnadin, Philips, è sparito tutto, tutte le sottoditte sono sparite. Torino ha perso tutta la Fiat, Mirafiori, 50.000 posti, l'Olivetti, Ivrea, niente, siamo la zona più priva di lavoro, priva di trasporto, questi qui trasporta solo cocaina, solo quelli che viaggiano col sacchetto della cocaina sono gli unici a cui interessa andare veloci, perché più portano cocaina e più guadagnano, ecco il problema, che non è della Val di Susa, è di quelli che commerciano l'unico prodotto che in Italia in questo momento tira, tutte le altre cose, non tirano una sega, tira le altre cose, ma proprio niente tirano le altre cose, è 30 anni che va tutto rotoli, se lei posteggia, e loro vogliono... posteggia Charles de Gaulle, ogni quarto d'ora passa un TGV, ogni quarto d'ora, proprio hanno questa abbondanza di passaggi sul... il binario è uno, comunque. Sì. Noi qui, ovvio, uno andare, uno io però avevo 10 anni, 50 anni fa, avevo 8-10 anni, tutti i ragazzini andavano vicino alle barriere a vedere passare quel bellissimo TGV, treno Gran Vitesse, no? Sì, sì. Che viaggiava ai 160 all'ora, è una cosa bellissima da vedere, cioè i nostri nonni erano un po' indietro, però viaggiavano ai 160 all'ora, noi abbiamo la stessa ferrovia, che non la fanno girare e che può portare i mezzi ai 160 all'ora come portavano i nostri antichi pecorai, contadini o quello che è, perché quelli della Val di Susa per i romani siamo nulla facenti, anarchici, di tutto. E oggi non possono più passare ai 160. Dobbiamo andarsi a infilare ai 120 in una galleria che per via delle dimensioni e per via delle fettoriette non può superare i 120 all'ora. È una cosa inconcepibile, ma cioè, è da quinta elementare, ma no, è dall'asilo, non da elementare, una cosa così. Cioè sapere queste cose, la disinformazione che c'è, bisogna dirglielo a qualcuno, farlo sapere anche agli altri che sono fuori di qui, che stiamo lottando per salvare le finanziarie degli altri. Perché qui mangiano due finanziarie a un'opera così. Un'opera che è prevista per 20 anni, come minimo ne dura 30, perché quello che si troveranno in quelle montagne lì d'amianto d'uranio, dove hanno già smesso di intervenire da altre parti, senz'altro minimo dura 10 anni in più, ma non è il fatto che dura, il fatto che non serve niente, che buca soldi da tutte le parti. Poi solo un anno fa per fare le Olimpiadi dovevano fare una pista di bob a Cesana, San Sicario, una superficie grande come un campo di calcio, dovevano trasportare via 10 camionate di amianto, hanno trovato l'amianto, hanno dovuto mollare e sono andati via. Perché? Perché c'era l'amianto in quantità irrisoria, hanno dovuto spostare le Olimpiadi, che gli ingegneri delle Olimpiadi che costruiscono quantomeno saranno persone un po' intelligenti, si spera, e si sono spostati. Noi ne abbiamo qui delle tonnellate in tutta la zona, tutto il Musinè, e dove le mettiamo? Non ci spostiamo noi? Non è possibile prevedere di fare un progetto proprio nella zona dove sei sicuro che c'è l'amianto. Loro parlano dei carotaggi. Sono 50 anni che i nostri vecchi carotano qui. Adesso la carota se la fanno da solo ad persona, stanno carotando ad persona con le guardie, tutto sigillato, stanno cercando l'amianto là dove c'è l'uranio e cercheranno l'amianto laggiù dove c'è sicuro che c'è l'amianto. Là cercheranno l'uranio. E lì il problema anche dell'ARPA, che è al servizio di chi sta devastando la valle, lì il problema. Dei carotaggi ad personam, che non ha riferimento alle leggi ad personam, però un qualcosina c'entra anche, fa parte di quel bel servizio che ci stanno facendo. E questa data 6/12/2005 è una data che resterà nella storia, scritta sui libri, questa data qui, questa è la fine dell'epoca Berlusconi, è chiuso, ha finito proprio, è passato anche lui tra i grandi della storia, può segnarselo con quello che ha combinato con la polizia che aggrediva i vecchi partigiani che dormivano nelle tende e li hanno distrutti, questa macchia qui è indelebile, è una cosa inconcepibile, fuori dalla razza umana, dal Ciampi. Pensiero normale della razza umana. Sì, ma Ciampi che una cosa vergognosa. Una cosa del genere. Ciampi si è sbagliato perché non conosce. Ciampi ha lasciato bastonare i suoi colleghi partigiani. I suoi colleghi partigiani. Partigiani che li hanno scritto. Che li hanno scritto e si sono presentati, gli hanno detto vieni qui a parlare con noi partigiani, siamo tuoi amici, vieni a sentire anche la nostra voce. Si sono rifiutati di sentire, Ciampi ha rifiutato di sentire la voce dei suoi amici partigiani. Poi sono talmente falsi, talmente è lì il problema. Ipocriti. c'erano mille agenti.